Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Le seconde linee della Juventus sono migliori di quelle del Milan, sono più toniche, più motivate, sono più sane in questo momento da un punto di vista psicofisico, e questo mi pare abbia detto grosso modo in estrema sintesi questa semifinale d'andata di ieri sera a San Siro, andata di Coppa Italia. Su di un campo va detto impossibile, questa mi sembra la prima notazione in assoluto, perché la prima difficoltà vera era quella di restare in piedi, lo si è visto in tutte le fasi della partita, in tutte le zone del campo e da parte dei giocatori di entrambe le squadre. È un Milan stanco che a me almeno ha dato l'impressione netta di giocare per lo 0-0, puntando poi sull'1-1 o qualcosa di più a Torino nella partita di ritorno che si giocherà nella seconda metà di marzo, e nella speranza di aver recuperato per allora i titolari infortunati. Ma certo il povero Milan ieri sera non solo ha compromesso a questo punto abbastanza pesantemente la finale di Coppa Italia, ma rischia grosso sia sabato a Udine che a maggior ragione dalla settimana prossima nella doppia sfida con l'Arsenal. Sentiamo alcuni dei protagonisti di ieri sera, cominciando da quello più inatteso, perché al suo ritorno in maglia bianconera Cáceres si è levato la soddisfazione di segnare ancora due gol, il secondo con un su un assist di Ambrosini, d'accordo, Ambrosini ha fatto due assist di testa ieri sera, uno per il pareggio di Esharavi e uno non meno preciso per il 2-1 di Cáceres, ma lì è stato bravo con un bel colpo a colpo sicuro dal limite dell'area. Nella prima, invece, sul primo gol, il suo tabin è il frutto indubbiamente, lo dicevo all'inizio, di questa diversa condizione psicofisica delle due squadre e anche della differenza di convinzione, perché quando la Juventus è partita su quel contropiede, ed è accaduto per quasi tutta la partita, non partiva mai in due o in tre soltanto, partivano tutti seguivano, e quindi che Cáceres abbia accompagnato a quel modo l'azione è estremamente significativo per dire come la partita è andata. Sentiamo Cáceres. No, ovviamente che mi aspettavo questa partita prima di fare due gol, no? La verità che, bueno, ovviamente sono contento per la squadra, per me, però bueno, come ho detto, mancano 90 minuti più. Io arrivo, la verità che due settimane, io non posso parlare tanto perché, bueno, sino mi compagno. Però posso dire che, bueno, che questa squadra credo che sta giocando la verità che molto bene, e bueno, aspettiamo fare di questa maniera tutto l'anno. È arrivato da due settimane Cáceres, e da poco più o poco meno sono arrivati gli altri due protagonisti dell'azione decisiva, quella del gol dell'1-0, perché è quella che ha cambiato il rapporto di forza in campo, e comunque, ripeto, l'obiettivo minimo del Milan era quello di non subire reti. Quell'azione è stata aperta da Padoin, mi pare proprio di ricordare, è stata conclusa da Boriello che ha fatto l'unica cosa della serata intera, comunque quello era un bel diagonale, e sulla respinta corta di Amelia è arrivato Cáceres, quindi tre protagonisti su tre arrivati alla Juve con il mercato di gennaio. Però Allegri non, secondo me, dovendo un po' mascherare la delusione, come è inevitabile in una situazione di questo genere, però Allegri sostiene che nulla è ancora perduto. Sentiamo. Dire che forse il pari è il risultato più giusto ci può stare, ma non ha senso, perché abbiamo preso due gol, il secondo è evitabile, abbiamo preso due o tre infilate in contropiede nel momento migliore nostro. La finale non è ancora assolutamente perduta, bisogna cercare di recuperare un po' di infortunati, soprattutto per far recuperare quelli che ultimamente stanno sempre giocando. Il primo tempo è stato un primo tempo a bassi ritmi, il secondo tempo è stato un buon secondo tempo dove, ripeto, abbiamo preso il secondo gol, un gol evitabile, e quindi bisogna cercare di migliorare queste situazioni. A cominciare, lo ripeto, da sabato a Udine tra soli due giorni, dove bisogna fare i conti comunque anche con la fatica di ieri sera, oltre che con delle condizioni meteo che tornano ad annunciarsi abbastanza difficili, e tra poco ne parliamo in dettaglio, non soltanto per Udine ma per una panoramica su tutti i campi del fine settimana di Serie A. Andrea Miglietta scrive: di solito quando Ibra comincia a distribuire schiaffi è segno che l'anno dopo intende cambiare squadra. Potrebbe essere un segnale anche questo. C'è stata qualche tensione a fine partita, una partita molto corretta fino a lì, a parte un paio di entrate che giustamente sono state sanzionate dall'arbitro, però una partita abbastanza leale, con questa non rissa, ma insomma qualcosa del genere finale, anche questa innescata un'altra volta da Ibra. Chiellini ha avuto parole abbastanza dure per Ibrahimovic. Successo uguale a domenica, solo che al posto che Aronica c'era Storari. Io spero che le immagini, insomma, o qualcuno abbia visto, perché comunque il fatto è successo. Purtroppo quando c'è un po' di nervosismo a volte ci sta di sbagliare, però è anche giusto che si paghi quando si sbaglia. Beh, dire che sia andata proprio domenica, come domenica, mi sembra sinceramente un po' eccessivo. Ibrahimovic è nervoso, non poco, poteva risparmiarsi alla fine questo mezzo buffetto a Storari, insomma, però tra l'episodio di ieri e quello di domenica mi sembra che, per quel poco che si è visto, mi sembra che qualche differenza ci sia. Che cosa pensa delle dimissioni di Capello? Domanda Lori da Milano. Dico che hanno finalmente trovato un casus belli per liberarsene, insomma, io credo, perché non mi è sembrato che Capello sosteneva una tesi non semplicissima da sostenere, soprattutto per una cultura sportiva come quella britannica, cioè che Terry dovesse restare capitano anche in attesa di giudizio. L'Inghilterra non voleva rischiare di trovarsi con un capitano durante gli europei che da lì a poco avrebbe potuto essere condannato per una frase razzista. Poi dire esattamente chi aveva ragione e chi torto non lo so. Noi possiamo riascoltare quello che Capello ha detto domenica alla trasmissione Rai 5 minuti di recupero, e che ha innescato non la vicenda, ma il finale traumatico di questa vicenda. No, assolutamente no. Ho parlato con il chairman, dicevo che secondo me uno non può essere sanzionato fino a quando non sarà ufficiale. Appunto, sarà la Corte a decidere, la giustizia decide, la giustizia non sportiva, ma la giustizia civile, a dire se John Terry aveva commesso quel reato di cui è imputato. Ritengo e ritenevo giusto che John Terry potesse mantenere la fascia di capitano. Questo, il fatto che il board abbia deciso per questo, è una cosa che gli compete quando si parla di etica. Dire che da queste parole tutta la situazione sia precipitata significa che evidentemente non aspettavano altro. Stamane il Premier Cameron ha detto: mi spiace per Capello, un bravo allenatore, una persona per bene, ma non credo abbia avuto ragione in merito a John Terry. E poi ha aggiunto: non puoi restare capitano con un punto di domanda che pende sul tuo capo. Se così si è espresso il capo del governo britannico, significa evidentemente che, diciamo, c'era un movimento d'opinione abbastanza globale, no? Che considerava chiusa l'avventura di Capello sulla panchina della nazionale inglese, che tra l'altro e il cui addio è stato salutato davvero senza rimpianti. Dopo magari vediamo un po' di rassegna stampa britannica. Torneremo più tardi su Fabio Capello e il suo addio alla panchina inglese, perché in queste ore torna il generale Inverno. Non che se ne fosse mai andato, per la verità, in questi giorni, ma ha in mente adesso di prepararci un altro fine settimana come si deve, un fine settimana coi fiocchi, come direbbe Alemanno dopo aver riletto le previsioni. Sicché, proprio come una settimana fa, appuntamento di servizio con Epson Meteo, che come sapete è uno storico partner di Radio 24, e in particolare con Paolo Corazzon. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, io ti rifaccio esattamente come 7 giorni fa, non solo perché ha avuto successo e molti ascoltatori avevano ringraziato di cuore per i tuoi consigli, esatto, per le tue informazioni, ma perché oltre a essere una cosa di servizio è anche una cosa di nuovo, di stringente attualità, e ne avremmo fatto sinceramente a meno. Sono il primo a dirlo. C'è da dire comunque che questa nuova ondata di gelo che sta per raggiungere l'Italia sarà probabilmente un po' meno intensa rispetto a quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Il grosso di questa nuova ondata di gelo arriverà tra venerdì e sabato, ma per quanto riguarda i campi di gioco, vedrai adesso, passandoli a uno, la situazione non è così drammatica come settimana scorsa. Beh, questa è una buona notizia. Allora senti, cominciamo da stasera, cominciamo dalla Coppa Italia, si gioca Siena-Napoli. Com'è Siena stasera? Allora, la situazione è tranquilla, al momento il tempo è buono, rimarrà buono anche stasera, solo qualche nuvola di passaggio, freddino, perché insomma fa freddo in tutta Italia, temperatura intorno ai 2-3 gradi allo stadio. Dunque, sempre stasera, anticipo di campionato, perché c'è una di quelle spalmature di nuovo che non ti dico, Lazio-Cesena, Olimpico a Roma. Quindi siamo a Roma anche oggi lì la giornata è buona, con cielo velato al momento, questa sera arriverà qualche nuvola in più, verso la fine della partita potrebbe anche cadere qualche goccia di pioggia, ma in realtà pioggia, non neve, perché la temperatura rimarrà al di sopra dello zero. Bene. Adesso credo che andiamo su situazioni un pochino più a rischio. Ore 18 di sabato, Udine, Udinese-Milan. Sì, allora guarda, in realtà per quell'ora ormai il grosso dovrebbe essere passato e tra l'altro in quel di Udine non prevediamo comunque precipitazioni abbondanti, quindi sostanzialmente durante la partita il cielo si manterrà nuvoloso, farà molto freddo perché siamo sotto zero e soffierà parecchio vento, però non prevediamo precipitazioni e anche le eventuali nevicate cadute in precedenza dovrebbero essere deboli, quindi secondo me si riuscirà a giocare. Si dovrebbe riuscire a giocare, sarà contento, sarà contenti tutti, credo, anche il Milan che sa, sta facendo un po' di tour de force, ma ha la possibilità, questo lo dicevo già ieri, se riesce a giocare questa partita, di vedersi poi accorto il ricorso per Ibrahimovic, perché sarebbero le due giornate se per caso la disciplina dovesse ridurre. Se salta Udine, Ibrahimovic salta matematicamente anche la Juve. Cagliari-Palermo la sera stessa non credo che ci dia grandi problemi. No, esatto, semmai lì il fastidio più che altro potrebbe essere il vento, soffierà un bel ventone di tramontana, però temperature sopra lo zero, non prevediamo precipitazioni. Beh, sai, il vento è il principale nemico del calcio da un punto di vista tecnico, però è anche vero che in queste condizioni benvenuto il vento, insomma, può arrivare di peggio. È il minore dei mali. Però devo farti un passo indietro per sabato nel pomeriggio, perché alle 17 c'è all'Olimpico, non a Flaminio, c'è Italia-Inghilterra di rugby. Allora io ho letto da qualche parte, ma ovviamente lo sottopongo a te, ho letto da qualche parte che sin da insomma domani potrebbe a Roma di nuovo nevicare abbastanza seriamente. Che cosa succede? Quanta neve può venire a Roma prima delle 17 di sabato pomeriggio? Purtroppo ancora una volta Roma sarà una delle città in cui la situazione sarà forse più critica, perché comincerà probabilmente a nevicare già a partire dalla giornata di domani e potrebbe andare avanti fino a sabato mattina, quindi in realtà durante la partita non credo che nevicherà più, però arriviamo da un 24 ore in cui un po' di neve è caduta. Noi qua del Centro Epsom Meteo non prevediamo quantitativi eccessivi, però i suoi 10-15 centimetri potrebbe anche farli. E si tratta questa volta di neve un po' più bagnata, quindi con ogni probabilità non attaccherà moltissimo. Potrebbe quindi smattirsi prima. Esatto, esatto, mettiamola così. Sì, sì. Però certo, con 10.000 inglesi in arrivo, sono tifosi di rugby e non di calcio, quindi è tutt'altra gente, se è per quello. Però con un Olimpico esaurito, con la necessità di sparare le gradinate e gli accessi allo stadio, eccetera, insomma, sarà certamente un non piccolo problema. Saltiamo a domenica, Bergamo, Catania, Milano, Parma, Bologna, la sera. No, fermiamoci a Parma. Bravo, perché in realtà finché arriviamo a queste prime, Bergamo, Catania, Milano e Parma, tutto filerà liscio. Sì. Temperature basse, in alcuni casi addirittura rimarremo sotto zero nonostante si giochi alle 3 del pomeriggio, però non prevediamo precipitazioni e in nessuna di queste località, se non forse Parma, nelle ore precedenti avrà nevicato in maniera abbondante. Quindi secondo me filerà tutto liscio. Sì. Mentre se invece parliamo di Bologna-Juve, ore 20:45... Lì è tutto un altro paio di maniche, perché in realtà se anche in quel momento le nevicate, che noi comunque prevediamo in Emilia, non saranno particolarmente abbondanti, però arriviamo da due giornate piene di neve continua in quel di Bologna, quindi lì non lo so, direi che forse il campo più a rischio in questo turno sarà proprio quello di Bologna. Cioè due giornate di neve piena vuol dire sabato e domenica o venerdì e sabato? Già da venerdì. Poi in realtà domenica tenderanno ad attenuarsi queste precipitazioni, quindi magari ci sarà anche il tempo di sistemare un po' la situazione, però ancora una volta l'Emilia sarà una delle regioni più colpite, proprio la parte più meridionale, quindi anche verso Bologna, la vedo un po' a rischio questa. anche nel caso, scusami, e poi non ti torturo più, anche nel caso di anticipo alle 15 a questo punto. Bravo. Perché c'è un problema proprio di spalatura, no? Bravissimo, esatto, perché il grosso in realtà, come dicevi, è tra venerdì e sabato, quindi che si giochi alle 15 o alle 20.45 cambierà la temperatura di 1-2 gradi, semmai sarà un filo meglio, ma certo. Il problema è un altro. Sì, questo, è chiaro, dopo Parma e Juve evidentemente l'Emilia quest'anno non è molto ospitale con la Juventus. Andiamo alla sera di lunedì, e qui, trattandosi di Napoli-Chievo e di Siena-Roma, mi auguro, o sbaglio? No, non sbagli. Stiamo tranquilli, quindi cielo poco nuvoloso al più nuvoloso, temperature basse sempre dappertutto, un po' di vento in quel di Siena, però situazione che ritengo non creerà problemi. Senti, e allora, visto che appunto c'è questo tormentone emiliano, lo so che andando sui 6-7 giorni comincia a diventare un po' più problematico, però mercoledì 15 sono in programma tre recuperi, uno a Bergamo, uno a Cesena e questo famigerato Parma-Juventus, come ce lo presenti? Beh, c'è da dire che comunque magari ora di mercoledì la gente si è dimenticata la mia previsione, quindi sì. Io mi sbilancio e comunque dando anche delle buone notizie, perché in tutti e tre i campi prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso, quindi non prevediamo precipitazioni. Tra l'altro si arriverà da un lunedì e un martedì di tregua, quindi dovrebbe filare tutto liscio, un gran freddo, copritevi bene perché saremo di gran lunga sotto zero, però ancora. Sì, però insomma non precipitazioni, quelle no, sono scongiurate. Senti, dato che ci hai parlato di questo gran freddo e poi chiudiamo, e dato che insomma in ascolto ci sono anche persone che di andare allo stadio non hanno proprio alcuna intenzione e però invece di questo freddo davvero non ne possiamo più, visto che ci sei, quando possiamo sperare di arrivare, non dico la primavera, ma insomma essere fuori dal tunnel, diciamo così. Allora guarda, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, perché in realtà il freddo e le temperature rimarranno al di sotto della norma un po' per tutto questo mese di febbraio, il che significa che non continueremo a battere i denti proprio come in questi giorni, però il freddo si farà ancora sentire. Da settimana prossima comunque piano piano, gradualmente, giorno dopo giorno le temperature saliranno. È anche vero però che appunto in questo fine settimana i denti li batteremo come da nord a sud. Ci togliamo ancora la voglia di battere i denti. Grazie a Paolo Corazzon. Grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Grazie davvero. Chiuso questo collegamento con Epson Meteo. Avete sentito che non c'è molto da stare allegri, perlomeno in Emilia, in Emilia e a Roma mi pare, no? Gli epicentri di sportivi, perlomeno per avvenimenti sportivi, sembrano proprio essere Roma il pomeriggio di sabato per Italia e Inghilterra di rugby e più ancora Bologna-Juve, sia per le 20.45 orario originario che per l'eventuale anticipo alle 15 di domenica. Nel frattempo dall'Inghilterra arriva la notizia che come responsabile tecnico a interim della nazionale è stato designato Stuart Pearce, che guiderà la nazionale inglese in Inghilterra-Olanda del 29 febbraio. Poi, vi ripeto, abbiamo questa rassegna stampa dei titoli principali dei principali quotidiani britannici, che non è particolarmente tenera con Capello, ma non è mai stata in questi anni. La caduta dell'imperatore Capello titola il Times, l'addio di Capello tra pochi rimpianti è la copertina del Guardian, il Daily Telegraph scrive l'Inghilterra era stagnante al costo di 6 milioni di sterline, che era lo stipendio di Capello annuo per l'appunto, era tempo che Capello se ne andasse, e ancora aggiunge il lutto sarà breve perché Capello non aveva compreso né la lingua né la psicologia inglese. Facciamo un salto all'ingiù notevole, sperando che ci sia, non dico primavera, ma insomma che non ci sia inverno almeno a Siracusa, da dove ci ha chiamato Gianni. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Sì, abbiamo circa 10 gradi qua, non lamentatevi. Sì, stamattina c'era pure il sole. Dunque, io una decina di anni fa mi sono rotto il crociato del ginocchio, giocando in un campo sintetico, nei campetti di calcetto. Sì. Ora, da allora, diciamo, un po' sono migliorati, come i campi sintetici hanno fatto una notevole evoluzione, e anche alla luce dell'esperienza del campo di Novara che quest'anno ha esordito in Serie A, non crede che la soluzione per San Siro, prima della costruzione di un nuovo stadio, sarebbe proprio di dotarlo di un bel campo sintetico, anche alla luce di quello che è costato in termini di infortuni al Milan, all'Inter, questa situazione del campo di San Siro? Io credo che sarebbe la sconfitta definitiva, cioè in questi anni il campo di San Siro ha perso tante partite, no? Proprio in quanto campo. Io credo che arrendersi al sintetico e rinunciare all'erba. Ma in quel campo, in quello stadio sì, non c'è altro. In quello stadio l'erba non cresce. C'è erba naturale in Siberia, Gianni, io credo che ce l'ha raccontato Pincolini con le sue trasferte da preparatore atletico di una squadra moscovita. Insomma, io continuo a rifiutarmi di credere che non possa esserci erba a San Siro, anche se è vero che dopo tanti anni qualche dubbio può cominciare a sorgere. Sarebbe una sconfitta definitiva, credo, però ogni tanto magari nella vita bisogna anche prendere atto delle sconfitte. Milan-Juventus di ieri sera su Rai 1 ha ottenuto il miglior ascolto stagionale in chiaro per un incontro di calcio, cioè il 29, diciamo il 30% di share e un audience di 9.310.000 spettatori, che considerato il livello tecnico e soprattutto emozionale del primo tempo, immagino siano un po' quei numeri da Formula 1, no? In cui tutti dopo i primi giri si addormentano e diventa difficile manovrare il telecomando. Renato Valenti scrive: Capello non può pretendere che gli inglesi non applichino la loro etica. Noi facciamo capitani anche gli scommettitori e poi li portiamo in trionfo se vincono dimenticando tutto. Per loro no, un rappresentante anche sportivo della nazione deve avere la faccia pulita. E John Terry, condanna o no, non ce l'ha più da tempo. È una riflessione dura ma direi assolutamente legittima, e naturalmente immagino, non sono nella testa di questo ascoltatore che ha scritto, che si chiama Renato Valenti, ripeto, ma immagino che quando scrive facciamo capitani anche gli scommettitori non si riferisca alla nazionale ma a squadre di club, per esempio al caso notorio di Cristiano Doni. Giovanni, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Senta, volevo chiedere una domanda per quanto riguarda il Milan. Praticamente, ieri, guardando le formazioni, vedevo il Milan e vedevo la Juve, giocatori nettamente più forti da parte del Milan, però vedo la Juve che gioca 100 volte meglio del Milan. Non so cosa ne pensa, e poi magari qualcuno ha la pancia piena. Poi voglio dire, questo Milan Lab alla fine cosa serve? Praticamente i migliori giocatori sono sempre infortunati e non possiamo mai avere a disposizione i vari Boateng, il Pato. Niente, solo questo, cosa ne pensa? Penso che Pato è al settimo infortunio muscolare in 3 anni mi pare di Milan, e 7 infortuni muscolari sono tanti, tutti tagliandati, mi verrebbe da dire, insomma, comunque tutti a San Siro, e effettivamente qualcosa c'entra pure il terreno prima ancora di eventuali responsabilità di Milan Lab. Poi che i giocatori della Juve siano 100 volte più forti è la... O 100 volte più brillanti, adesso non ricordo esattamente che cosa ha detto, è il tipico tifoso deluso che parta, ma se invece vogliamo dire che corrono meglio, corrono di più, sono più motivati e sono in questo momento anche più compatti, beh, insomma, si è visto ieri sera anche per le seconde linee. In questo momento mi pare che valga sia per le prime che per le seconde linee. E poi bisogna vedere come si va avanti. Enrico D'Ancona scrive: ho visto ieri sera Ibrahimovic, da juventino spero proprio che gli riducano la squalifica in maniera che possa giocare il big match del 25 febbraio. È una battuta, ma lo è fino a un certo punto. Pietro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Due argomenti veloci. Uno in merito allo stadio di San Siro. Lei prima poc'anzi disse che la sconfitta definitiva allo stadio di San Siro arriverebbe nel momento in cui fanno il campo sintetico. Io direi che la sconfitta definitiva è arrivata nel momento in cui hanno deciso di fare la copertura definitiva, che è quella che in realtà va a rovinare. A rovinare, guardi, la copertura di San Siro è una tragedia tale, no? Quel progetto datato 1989, una tragedia tale fa cadere anche le linee telefoniche. Pietro, vediamo di ripescarle più tardi. Roberto dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io sono tifoso dell'Inter, alla rimonta non ci ho mai creduto, neanche dopo aver vinto il derby, perché ho visto le partite che ha vinto, abbiamo sempre giocato male. Secondo me la rifondazione dell'Inter dovrebbe partire anche dalla dirigenza, mandando via Branca e prendendo un direttore generale come Marino dell'Atalanta, che lo trovo molto competente. E poi spero che finalmente stavolta arrivi in panchina Capello dopo tanto tempo, spero che sia la volta buona. Lei cosa ne pensa? Non ne ho idea, Roberto, sinceramente. Non lo so, Capello è ovvio che adesso fare ipotesi varie per Capello è automatico. Ieri sera non si era ancora dimesso dalla panchina della nazionale inglese e già fioccavano le ipotesi, no? E una per l'appunto è legata a una eventuale rifondazione dell'Inter, un'altra è un ruolo da dirigente tecnico, diciamo un ruolo non alla Ferguson perché non allenerebbe più in questo caso, ma un ruolo da direttore tecnico con competenze di mercato alla Juventus e altre ancora, insomma, quindi vediamo, senza fretta. Certamente uno dei candidati di cui si parlava per una rifondazione interista era Spalletti, e dico era perché stamane ha firmato un prolungamento di contratto con lo Zenit di San Pietroburgo, dove è da 2 anni ormai, fino al 2015, quindi almeno in teoria Spalletti mi sembra fuori gioco rispetto a questa eventualità. Abbiamo ripescato Pietro, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, la copertura abbiamo capito che non la nominiamo nemmeno più, se no ricade la linea. Sì. Va bene, no, la seconda cosa era in merito alla questione Tevez. Il discorso che volevo fare era questo: l'arroganza della proposta di Galliani a fronte di un giocatore sotto contratto, proprietario del cartellino il Manchester. L'offerta che il Milan proponeva era di avere un prestito gratuito non con obbligo di riscatto, ma con diritto di riscatto. Finalmente diciamo il dio denaro, che è quello che ha rovinato un po' il mondo del calcio negli ultimi anni, qua da un punto di vista etico ha avuto la meglio, perché finalmente c'è stata una proprietà con i soldi che non è scesa a compromessi e non ha ceduto ai ricatti di procuratori maleducati e calciatori viziati. Questa è la mia considerazione. Sì, se non fosse che tirare. No, io condivido in buonissima parte. Poi le dirò che l'uso della parola etica a proposito degli sceicchi proprietari del Manchester City così mi lascia leggermente perplesso. Però è vero che la vicenda è andata abbastanza in quella maniera. D'altra parte, sa, ciascuno cerca di fare il massimo dei propri interessi, ovunque e quindi anche nel calcio. Al Milan era riuscito un colpo, se non così, non diversissimo, e comunque uno stratosferico colpo con Ibrahimovic, no? Che ha pagato 70 o 72 milioni di euro non dal Rocca Cannuccia ma dal Barcellona, e svenduto l'anno dopo, o comunque dato in prestito, poi i diritti di riscatto, poi le cose, ma alla fine al Milan costerà grosso modo un terzo di quello che il Barcellona aveva pagato, e quindi ti viene la voglia di continuare a provarci, insomma. Walter ha chiamato da Trento, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Niente, io telefono per la partita che abbiamo visto tutti ieri sera e in linea di massima condivido tutta l'analisi che avete fatta. Volevo così fare una piccola provocazione, ma vedendo come fa giocare questo ragazzo Emanuelson a destra, oltretutto che nell'Ajax non ci ha mai giocato, non è che sembra che faccia un po' il fenomeno, anche un po' Allegri? Era una provocazione, però. Non lo so, io non faccio sempre fatica a distinguere tra provocazioni e analisi. Io so però che, cioè, quello che non so è che alternativa avesse Allegri, perché sa, un tempo era più semplice, no? C'erano quei 15, 18, esageriamo, 20 giocatori e 2 o 3 ragazzini nella primavera. Allora dicevi, era molto più facile dire: oh, ma perché ha giocato Emanuelson, per esempio, da quella parte ieri sera? Adesso è più dura perché non sai neanche quanti sono in rosa, sinceramente, i giocatori, non sai quanti sono infortunati veri, perché poi ci sono i veri, ci sono i presunti, ci sono quelli che la società non comunica che sono infortunati, c'è il diritto sulla privacy, insomma è diventato molto ma molto più difficile sapere chi effettivamente è disponibile e chi no. E allora tutte le ipotesi sono valide, cioè che Allegri aveva preso una cantonata, che lì non avesse alcuna altra soluzione, potesse giocare lì solo Emanuelson, che il turno di riposo da Barthe fosse indispensabile oppure fosse soltanto un optional. Bisogna tener conto che il Milan ieri sera, per carità, giocava una semifinale di Coppa Italia e la giocava contro la Juventus, però si gioca un pezzetto di campionato tra da lì a tre giorni, e cioè sabato pomeriggio a Udine, e da lì ad altri quattro si gioca un pezzo grosso di Champions con l'ottavo di finale con l'Arsenal, in casa tra l'altro la prima partita. Io credo che tutto questo vada messo insieme, no? per una valutazione seria, perché sennò, se non lo vediamo in un'ottica un pochino più globale, di impegni ripetuti e a questo livello, diventa davvero un po' facilino dire che uno sbaglia o indovina o sbaglia clamorosamente le formazioni. Fortunio muscolare serio per Girardino, il nuovo centravanti del Genoa, perché ieri ha lasciato il campo prima del tempo durante una partitella, sembrava un lieve affaticamento, invece è una seria lesione muscolare al polpaccio che prevede uno stop di, dice la notizia dell'agenzia, ma dicono i medici del Genoa, di alcune settimane. Poi vedremo, a proposito appunto di diagnosi, vedremo quante saranno queste alcune. Michele Torino, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Niente, volevo chiederle prima di tutto notizia di Cassano, e poi visto il Milan ieri sera, in particolare Ibrahimovic, mi chiedo se non gli manca. Mi chiedo? Se non gli manca a Cassano, sia al Milan che a Ibrahimovic. Beh, insomma, il Cassano della prima parte della stagione penso che manchi un po' a tutti, penso che mancherà anche a Prandelli, però ormai manca da mesi e insomma ci vuole, nella speranza che guarisca presto, ci vuole molto molto sano realismo. Cassano oggi non può essere una risorsa per il Milan, perlomeno in questa stagione, difficilmente, molto difficilmente, io credo, lo sarà anche per la nazionale agli europei, e quindi che manchi o che non manchi non fa molta differenza, temo. Scrive Fabio da Novara: il vero problema nel terreno di San Siro, complice la copertura, è che ci giocano due squadre ininterrottamente, coppe comprese. Prendiamo sempre esempio dall'estero, ma all'estero non c'è un caso simile. Infatti mi auguro che all'estero non prendano mai esempio dalla gloriosa città di Milano, da questo punto di vista particolare, ovviamente. Nicola Filippone e il 9 febbraio, sentiamo. Sembra ieri. 9 febbraio 1966. Al Comunale di Torino, una squadra di Serie B, il sorprendente Catanzaro, batte la Juventus di Eriberto Herrera e guadagna la finale di Coppa Italia. I calabresi passano nel primo tempo con un'autorete di Leoncini, subiscono il pareggio di Del Sol e realizzano il 2-1 definitivo a poco meno di un quarto d'ora dal termine, con un calcio di rigore trasformato dall'attaccante Tribuzio. A maggio, nella finalissima che si disputerà all'Olimpico di Roma, il Catanzaro si arrenderà alla Fiorentina soltanto ai supplementari. Dove trovi queste cose, Nicola Filippone? Me lo domando spesso, ma in questo caso la risposta ce l'ho. È stato un ascoltatore di Catanzaro, già parecchio tempo fa, a mandare a me una mail pregando di segnalare questo evento storico per il Catanzaro, e te credo, e insomma di segnalarlo a Nicola Filippone, che a questo ascoltatore regala anche la formazione che giocò poi la finale, e purtroppo per il Catanzaro la perse, quella finale di Coppa Italia 66 contro la Fiorentina, che era Provasi, Marini, Lorenzini, Maccaccaro, Tonani, Sardei, chissà se c'è qualche catanzarese in ascolto che ricorda qualcuno di questi giocatori, Vanini, Marchioro, Bui, Gasparini, Tribuzio. L'allenatore era Ballacci. Io so solo che Ballacci era un ex calciatore del Bologna, che Gianni Bui fece poi una eccellente carriera in Serie A, centravanti di grande statura e di grande tecnica, tra l'altro lento, ma brauma lento, come si diceva una volta, e la mezzala destra Pippo Marchioro è stato poi un allenatore che ha fatto carriere come anche a Cesena, anzi particolarmente a Cesena, ricordo una Coppa UEFA del Cesena con Marchioro allenatore. Da Cesena ci ha chiamato il prossimo ascoltatore, Walter, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. A proposito di campo sintetico, sì. A Cesena doveva essere un uomo in più, invece abbiamo diritto in Serie B perché non facciamo mai punti sul campo sintetico, dove avevamo uno dei migliori terreni della Serie A o Serie B. Una piccola riflessione su Capelli, io credo che sia tutto calcolato. Dopo aver fallito il mondiale, avrebbe fallito sicuramente anche l'europeo, e se non arrivava nei primi quattro comunque era un fallimento per l'Inghilterra, avendo forse anche l'Inter alle spalle, Capello ha fatto una scelta, la miglior scelta che poteva fare, secondo il mio modesto parere. Ma insomma, secondo il mio la scelta l'hanno fatta tutte e due, perché insomma era un amore mai nato, davvero, no? Né da parte dell'Inghilterra né da parte di Capello. Questa scelta è stata molto, ma molto tardiva, perché comunque adesso a 3 mesi, a 4 mesi agli europei è un problema serio per la federazione inglese, e quindi mi pare che sia una vicenda in cui grosso modo ci hanno rimesso un po' tutti. Certamente ci rimette di più la federazione inglese, che si trova adesso alle prese con una sostituzione difficile, perché in ogni caso il lavoro qui l'ha fatto Capello. Bisogna trovare un CT all'altezza della nazionale inglese, magari lo trovano e magari questo solleciterà la mola dell'orgoglio. Lo vediamo in giugno, poi da 7 giugno in avanti e fino al 1 luglio, ammesso che vadano in finale. Luciano, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Niente, io spero, come mezzo tifoso milanista da quando c'è Galliani, che Capello, con i soldi che ha preso in Inghilterra, venga al posto di Galliani. Primo. E secondo, ho paura che Allegri, l'anno scorso quando era appena arrivato, gli attaccanti del Milan praticamente giocavano per far segnare il compagno. Ieri sera hanno fatto tutto il contrario. Vuol dire che ha perso un po' il manico della squadra. Cosa ne dice lei? Ho capito poco, Luciano, sinceramente, cioè non ho capito l'accenno finale. Io credo che con l'Ibrahimovic di questi momenti non sia facilissimo convivere in attacco. Credo che insomma, per essere brillanti davanti ci voglia anche qualche rifinitura interessante, qualche giocata improvvisa. È andato 2 volte sul fondo Antonini, bene, in velocità, crossando bene, e qualcosa è successo, un gol e un'altra situazione di pericolo. Ma il lasciare a centrocampo il Seedorf, insomma, diciamo pure stanco e appannato di questo periodo, Ambrosini che una la zecca e un'altra magari no, comunque 2 giocatori palesemente sulle gambe, alle prese con il centrocampo della Juventus, beh, insomma, non è stato facilissimo. Tant'è vero che se ieri sera non fa una grande partita Van Bommel, ma una grande partita Van Bommel, la Juventus li sderena molto, ma molto prima di quanto poi non sia in effetti accaduto. Pasquale, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, mi ha tolto un po' le parole di bocca da quello che volevo dire. In effetti, vedendo la partita di ieri, direi che Seedorf e Ambrosini, in effetti, è grande stima, perché sono milanista da sempre, però direi che ormai credo che abbiano perso quella lucidità che il centrocampo del Milan ha bisogno. Ma sa, mi scusi Pasquale, questo è già sembrato anche altre volte, poi in verità l'ha ritrovata, soprattutto Seedorf. In questo momento fanno fatica, ecco, mettiamola così. Ecco, io volevo dare, mi permetto di dare un mio suggerimento personale, non ne vogliono i tifosi della Lazio, però io avrei un acquisto da suggerire per il nostro centrocampo, perché dai tempi di Kakà non vedo più ripartenze rapide, non vedo più quella brillantezza, anche con Boateng in campo non mi sembra che il Milan abbia quello stampo che aveva con un uomo come Kakà è unico, d'accordo, però. E quindi? Io suggerirei Hernandez della Lazio, mi sembra che uno che il calcio lo mastichi bene, che è inserito in un contesto. Ma sì, no, io non discuto, non entro nel merito, dico solo che siamo al 9 febbraio, che il mercato l'hanno fortunatamente chiuso 10 giorni fa e siamo già di nuovo proiettati. Il Milan ieri sera, se il Milan a gennaio ha fatto incetta di centrocampisti giovani, no, e non di particolare nome, i Merkel e gli altri, evidentemente era perché sapeva che gli Ambrosini, Seedorf e questi, soprattutto in certi periodi dell'anno, devono rifiatare, e soprattutto se reduci da infortuni, come è nel caso di tutti e due. Poi si sono infortunati pure questi, io credo, torniamo al discorso di prima, bisogna sapere chi c'è davvero disponibile e chi no, prima di giudicare magari con una certa severità. Temo che non ci sia spazio, che non ci sia tempo più per il prossimo ascoltatore, mi spiace, perché Antonio da Napoli lo saluto con grande piacere, ma Ma davvero il tempo è scaduto, sta scadendo perlomeno, sta partendo la musichetta, Filippo Aureggi la inserisce e questo serve appunto a segnalare che anche per oggi l'appuntamento è concluso, grazie a lui che stava in regia, grazie a Franco Piantanidi in redazione e a tutti voi per l'attenzione. Buon pomeriggio. A tempo di sport.